Si comincia Milan, dai, carico! Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, alle 9 e 6 minuti. Ci siamo con voi fino alle 11. Nel giorno in cui, devo dirlo, si può dire la vigilia di Natale. Non credo che a Natale approvino la riforma elettorale. Quindi, di fatto, si conclude la 14ª settimana decisiva per la riforma elettorale. Niente di fatto. La prossima forse gliela abboniamo perché è vacanza. Però questo è. E come si conclude? Come ci avviciniamo a questo Natale? Come ci avviciniamo? Colpo di testa di Hernandez! Che è successo? Che è successo? In pieno recupero! Il Milan rimette la freccia! Rimette la testa avanti! Si riprende il primato in classifica! Addirittura la Peppa, che paroloni! Calmi, calmi, che paroloni! Vabbè. Sono le 9 e 7 minuti. Noi siamo qui al 349-238-6666. Voi manifestatevi, fate un cenno, diteci che siete con noi a farci compagnia. Ci siete, cari ascoltatori, fate un colpo. Che succede? È presto. No. Sono contrario a queste alzatacce alle quali sono obbligato a partecipare, quindi sono contrario. Poi alla vigilia di Natale bisognerebbe essere tutti a casa, e invece siamo qui ligi sul lavoro, stacanovisti, signori. Buongiorno Leonardo, buongiorno Manera. Buongiorno Leonardo, buongiorno Manera, buongiorno c'è a tutti. Il signor Leonardo Bonetti, schiavo suddito, in studio. Carino Leonardo Manera. Ho visto la sua foto su Google. Grazie. Ha una faccia che fa ridere. Meglio. Già che ci sono, visto che questa signora mi ha fatto un mezzo complimento. Mezzo. Volevo ringraziare la persona, la ragazza, credo, ho visto la foto perché me l'ha fatta vedere al bar. Dove? Al bar, non il bar Jimmy, perché era chiuso quando sono uscito. L'hai tradito il bar Jimmy. No, era non chiuso. Più, non vai più dal bar Jimmy, non vai più. Dillo, diciamolo. No, è chiuso a quest'ora, apre Jimmy, un po' più tardi. Signor Jimmy, Jimmy apre più tardi. Più, non viene più, ha detto la che fa schifo il tuo caffè. Mi ha lasciato un caffè pagato. No. Mi ha lasciato un caffè pagato al bar Tabacchi di Piazza Udine. Grazie, basta, grazie. Basta, non ne ha bisogno. Vabbè, ma un caffè non è, me lo potrei pagare anch'io, non è quello, sì. È un gesto di affetto, sì, che io ringrazio. 10 euro di benzina te ne puoi pagare anche tu. Ne ho altre 10 sospese, se ti interessa la questione, lì al benzinaio di Piazza Udine. Manera, sei un grande. Allora, signori, io sono talmente felice di avere qui dall'inizio Leonardo Manera insieme alla redazione. Saluto Mine Lucchetti, che oggi ha un maglione natalizio. Natalizio di quelli che si usano quest'anno con le renne, i Babbi Natale. Hai visto queste cose che qualche anno fa facevano orrore? No, le mettevi quelli, solo in montagna un giorno, no, quando erano tutti ubriachi. Bravo, un giorno. È di quelli che si usano il giorno in cui, cosa c'è, il Christmas, come si chiama? Adesso me lo deve scrivere perché c'ha pure la mascherina, non leggo il labiale. Sai che un giorno all'anno si mettono i maglioni, quelli bizzarri. Quest'anno era il 15, credo. Ma cioè tutti gli anni è il 15. Non so niente di questa usanza pacchiana. Il Christmas Jumpers Day. E quindi ognuno si mette dei maglioni un po' così. Però se tu vai nei negozi di moda che sei solito frequentare, ci sono molti maglioni del tipo che stamattina indossa Miriam. Cioè, proprio una moda di quest'anno, moda, che è tornata prepotentemente. Comunque, signori, c'è Leonardo Manera dall'inizio. Ha già chiesto degli straordinari. Sì, in 4 anni penso che sia capitato 3 volte. Sì. Ma hai sfidato a qualcuno. Un ascoltatore ieri mi ha scritto questo: è che voi continuavate a dire Manera vieni a Radio 24, Manera vieni a Radio 24, e lui ha capito vengo in radio il 24. E quindi eccoci qua. Certo, perché sono un cretino, non capisco quello che sono, un coglione, non capisco mai quello che mi viene detto. Dai. Vieni a Radio 24, io capisco, ma vengo al 24. Vedi, l'idea che hanno di me. Sei in pigiama? No, ci potete vedere anche in diretta su Facebook il video, non è in pigiama, posso confermare, è un bel maglione a righe orizzontali. Sono un po' nerazzurre. Un po' nerazzurre, ma più tendenti al viola, forse. Violaceo. Vabbè, in questa Milano un po' desolata, oggi qui nei pressi di Viale Monterosa c'è una desolazione totale, c'era più vita dalle parti di Lambrate, devo dire. Eccolo qua, eccolo. Quindi qua. Mi auguravo... Dove c'è, ricordiamo, il cimitero, peraltro, il cimitero di Lambrate. Sì, vabbè, però la mia è una zona più defilata, meno centrale, quindi sì. Perché io non sono proprio neanche a Lambrate, che è abbastanza in... Sono in piazza Udine, che è vicino a via Palmanova, che è vicino a via Padova. Quindi sono in una delle zone peggiori di Milano. Guarda qua, Manera alle 9 la vigilia, non ci credo. Siete registrati, leggete il messaggio per dimostrare il contrario. Caro ascoltatore, questa è la dimostrazione, messaggio arrivato adesso. Quindi io arrivavo da quella zona, che era abbastanza movimentata stamattina, pensando che qui in centro, in zona fighetta, diciamo Monte Rosa, ci fosse più movimento, invece c'è una desolazione totale, e questo ha contribuito ad affossare il mio mor nero. Ok, ok, bene. Dalle 4 sono al lavoro, auguri, auguri, salutiamo tutte le persone che anche oggi lavorano, soprattutto non so, quelli che devono consegnare, gli autotrasportatori, pensa ai negozi alimentari, tutti aperti oggi. Pensa ai camionisti fermi a Dover, mamma ci mia. Sarà anche qualche italiano, no? Come no? Facciamo, magari non ci ascoltano, ma idealmente facciamo loro un saluto, perché sono lì da ore, da giorni, in una situazione e non sanno nemmeno se potranno muoversi. Saluti dall'orto, guarda qua che ci manda una foto. Ma cos'è, basilico, caro ascoltatore, che ha appena raccolto? Il basilico di questi tempi fiorisce, io non so niente, cioè, perché c'è sembra un basilico, spinacine, non lo so. Sfida Luchetti, senza vedere la foto, che razza di verdura sarà mai? Buon floro a tutti. Vabbè, insomma, che bello, siamo qui in diretta fino alle 11. Possiamo partire, vai Alpino. I will not be easy. And it will not be easy. Rock duro. Anche oggi. Rock durissimo. Allora, alle 9:13 minuti, Leonardo, cosa mi ha colpito dai giornali? Beh, questa cosa della scuola, la scuola a metà. Qualche giornale, il Quotidiano Nazionale, titola, cos'è che titola? Studenti traditi a metà. Anche il Corriere perché mette la prima apertura. Si diceva che le scuole sarebbero ripartite al 75%, giusto? Adesso siamo scesi al 50%. Ma io non sono scaltro, sai? Come dici tu? Può darsi che da qui al 7 gennaio un po' la percentuale, non voglio essere disfattista, se no dicono ecco voi siete... No, siamo scesi al 25%, chissà che con qualche altra variante... Guarda, no. non lo so, io dico solo una cosa, a Milano hanno fatto una cosa, hanno studiato un'idea insieme al Politecnico, hanno fatto tutti questi tavoli, hanno detto tutti i negozi non di alimentari, non so, le profumerie, le erboristerie, eccetera, apriranno alle 10:30, e quindi... per permettere agli studenti di andare a scuola. Mi sembra una cosa talmente di buon senso, è arrivata così in ritardo, arrivata adesso a gennaio, si poteva fare da settembre e mantenere gli studenti che andavano a scuola, insomma, per non ingolfare le metropolitane, e invece no. Non si poteva far così, non si può far così? Io dicevo. Ci sono tanti paesi dove succede già, peraltro. Ma in sì, Spagna, ad esempio, mi sembra che i negozi aprono un po' più tardi, no? In Francia, ma io avevo detto a settembre questo slogan, ovviamente. Meno pizzerie, più scuole. Non ce l'ho con le pizzerie. Oh, sì. No, non ce l'ho con le pizzerie. Quando passi davanti a una pizzeria, ma non le deridi. Le adoro. Dice andrebbe chiusa ogni ma volta no, che passi. Non è vero. Saluto i miei amici della pizzeria. Solo Gargano, perché a te non piacciono le pizze, Gargano, vuoi far chiudere le pizzerie. Andate a mangiare la pizza a Gargano. Tu ogni volta che passi davanti a una pizzeria dici mettete un istituto tecnico qui. Così no, dici. No, sì, no. Sì. Io dico... viva le pizzerie aperte, ma un paese che non mette la priorità alla scuola è un paese che rotola giù per le scale e finisce in cantina. Quindi fare di tutto per tenere aperte le scuole e far tornare gli studenti a scuola, loro la precedenza, e se dico non la precedenza alle erboristerie, non è che ce l'ho con le erboristerie, ma in questa situazione possono aprire alle 10:30 le erboristerie, no? Sulle mani per gli studenti! Oh! No, poi lo so, su questo però non voglio scatenare Leonardo Manera, perché lui è più complottista, lui è complottista. No, però questo modo di porre l'informazione, adesso io non voglio dire niente sulla variante inglese, perché ne abbiamo parlato 3 giorni fa, io do la parola a chi ne sa. 3 giorni fa il professor Bucci ci ha spiegato bene che è come vendere un bel pacchetto di informazione. Vendi la variante inglese, la paura della variante inglese, la reazione alla variante inglese, cosa faranno i vaccini per la variante inglese, e i telegiornali o anche i radiogiornali hanno venduto 3 giorni di bella informazione sbattuta in faccia in maniera ansiogena. Poi leggi il virologo Giorgio Palù, professore di microbiologia e virologia, ex presidente dei virologi, ora all'Agenzia del Farmaco, viene messo in basso a pagina 10 del Corriere della Sera a dire: la variante inglese non c'è nessun allarme, non c'è motivo di preoccuparsi, è da mesi qui, non è detto che abbia un'evidenza di contagiosità più aggressiva, il tasso di mortalità è rimasto lo stesso, e se proprio lo devo dire, nessuna pandemia nella storia è durata più di 2 anni, quindi un po' di ottimismo ovviamente nella difficoltà. Vabbè, si è scelta una linea evidentemente, no? La variante inglese, adesso c'è quella sudafricana. Ho visto che arriva, però la buona notizia qual è? Che possiamo dare, perché l'ho sentita stamattina nei telegiornali, quindi è ufficiale. Che, e lo sapete anche voi, la variante inglese era in Italia ormai da diversi mesi, quindi non dovrebbe comportare un aggravio della situazione. Così dice il professor Palù, non dice Leonardo. No, io dico perché l'ho sentito stamattina nei giornali radio. No, ma dico, lo dice Manera, non lo dice neanche il giornale radio, lo dice il professor Palù. Sì, ma se tu guardi bene sotto la firma di Palù c'è la parentesi Leonardo Manera. Leonardo Manera che l'ha fatto. È un falso nome, va bene. Palù. Alle 9:17 minuti voglio salutare il nostro primo ospite. Il 24 di dicembre vogliamo parlare anche di pensieri un po' più profondi con il professor Vito Mancuso, che è un teologo. Il suo ultimo libro è I Quattro Maestri, uscito a novembre per Garzanti. Buongiorno professor Mancuso, grazie di essere buongiorno. Qui. I quattro maestri, diciamo subito chi sono, anche perché uno è Gesù, che insomma ci azzecca abbastanza nella data, no? di cui parliamo, o no? Sì, ci azzecca molto, anche se la data è controversa, perché certo. Il 25 dicembre non ha molto a che fare col Gesù storico, ha a che fare con il Cristo della fede e della tradizione. E comunque gli altri tre sono Socrate, che io definisco un educatore, poi Buddha, che definisco medico, e Confucio, che definisco politico, e noi nei nostri giorni dobbiamo sempre dire politico nel senso nobile del termine. del rispetto della polis. Ecco, vediamo, perché sono molto attuali e giustamente lei li ha attualizzati. Cominciamo da Socrate, l'educatore, la scuola al centro. Professore, ma perché non riusciamo a capire l'importanza, pur nell'estrema difficoltà di questa situazione, del mettere la scuola al centro? Invece questi ragazzi sono considerati di fatto gli ultimi della fila. Io ascoltavo prima quello che lei diceva della scuola come prioritaria e concordo totalmente, perché è l'unica speranza che abbiamo, appunto, di non affondare, no? Di investire sulla scuola. Ma perché? Ma perché non hanno potere contrattuale, non hanno forza, è la cosa più semplice. E chiudere le scuole, mentre se si chiudono altri esercizi, altre cose, ci sono le proteste immediate, la scuola sembrano che siano tutti contenti, sono contenti i professori che rischiano meno, sono contenti gli studenti, in prima battuta immediata forse solo le famiglie non sono contenti, però è chiaro che la politica e arriviamo a Socrate, non si fa demagogicamente, la si fa andando a vedere quali sono le cose veramente essenziali. Socrate venne condannato a morte esattamente perché insisteva sull'importanza decisiva della educazione, sull'importanza decisiva di non cadere nel populismo. E chi era Socrate? Era uno che esercitava l'educazione nel senso più vero del termine, tirava fuori, e non a caso parlava di se stesso in riferimento al mestiere della madre. La madre Fenarete era una levatrice e lui parlava di Maia, maieutica. Maia in greco vuol dire levatrice, maieutica l'arte della levatrice. Cosa tirava fuori? La coscienza, la libertà, la capacità di pensare in autonomia, e questo la scuola dovrebbe fare. Tra l'altro uno dei grossi problemi, secondo me, del nostro sistema scolastico, anche a prescindere adesso dalla pandemia, c'era anche prima, sì, è che noi abbiamo abbandonato l'idea di educazione e per affidarci unicamente all'idea di istruzione. Le cose sono diverse. Istruire, instruire in latino, vuol dire apparecchiare per, come apparecchiamo la tavola per il pranzo di Natale, apparecchiamo, così apparecchiamo anche i nostri ragazzi, li formiamo, li rendiamo, come dire, atti a compiere delle istruzioni, mm-hmm, istruire, istruzioni, strumento, struttura, strustu, questa è la radice qua. E va bene, io non ho niente contro l'istruzione, l'essere uno strumento, l'essere in funzione di, anzi, dico solo che è insufficiente per formare esseri umani degni di questo nome. Occorre fare anche l'operazione contraria, che è esatta, il verbo latino lo dice, istruire, mettere dentro, educere, tirare fuori. Ecco, occorre tirare fuori coscienza critica, capacità di pensare, capacità di dire di sì, a volte dire di no, a volte, insomma, lo sappiamo cosa vuol dire essere uomini. Eh sì, è quella cosa lì. Anche perché poi l'istruzione vuol dire poi formare persone, ragazzi e ragazze, che poi domani faranno i ricercatori, la mettiamo proprio sul senso pratico, no? Solo studieranno che forse e ci aiuteranno anche a affrontare questi momenti. Limitandosi a istruire senza educare, non si sviluppa forse il senso critico, che alla fine può anche fare più comodo, no? Fa più comodo, perché penso sia più facile governare strumenti che non persone pensanti, questo sì, forse penso sia più comodo, è così. Comunque Socrate non fece una bella fine, insomma, come neanche Gesù fece una bella fine, sì, perché è sempre qualcosa di fastidioso, insomma, ma anche Gesù, proprio per il populismo, sì, proprio sì, per sì, la comodità dei più. A Gesù ci arriviamo, perché insomma mi sembra doveroso, lasciamo per ultimo, però ci dica qualcosa su Buddha il medico e Confucio il politico, due figure, se le vogliamo attualizzare così, estremamente attuali. Io dico sempre che alla politica manca una visione, non è tanto l'idea del essere pro o contro il politico di turno, ma qualsiasi politico, gli ultimi anni, forse è una tendenza degli ultimi 20 anni, non ha la visione, poi figurarsi, adesso c'è la visione del vedere l'ultimo tweet del giorno per cercare di inseguire il consenso quotidiano, cioè non c'è una visione, un qualcosa che ci dica vogliamo portare il paese là nei prossimi 30 anni. Io sono totalmente d'accordo, consonante profondamente con queste cose, visto che lei ha parlato di politica, allora parto da Confucio, anche se è il terzo nell'ordine, sì, del libro, che peraltro non è un ordine alfabetico, non è un ordine cronologico, ma è un ordine emotivo. E la visione, sì, certo, la visione. Confucio aveva una grande visione, una visione estremamente ottimista dell'essere umano. Lui pensava che nel fondo di ciascuno di noi esistesse o esiste la rettitudine, che il fondo di ciascuno di noi è buono. Non significa che tutti gli esseri umani che noi incontriamo siano, certo, buoni, siano giusti, ecco, ma appunto sono imperfetti, sono malati, non sono compiuti. La compiutezza dell'umanità, che lui chiamava Ren, questo è il concetto centrale di Confucio, corrisponde all'essenza stessa dell'essere umano. Quindi grande fiducia nella natura, grande fiducia nell'umanità, e a questo si trattava di educare esattamente le persone attraverso tutta una serie poi di strumenti, la ritualità, la conformazione, lo studio. Per Confucio era decisivo lo studio, decisivo, sì, e torniamo alla scuola. Sì. Una persona nobile è veramente solo una persona che si consacra allo studio. Lui dice: a 15 anni mi dedicai allo studio, questa è stata la dimensione decisiva della sua esistenza, perché se non si studia e non si conosce, si rimane preda dell'ignoranza, delle passioni. Passioni possono essere anche una cosa buona, ma sono una cosa buona, ma se non sono indirizzate, formate, è chiaro che sono distruttive, anzitutto per chi le coltiva. Il tema del medico, qui ci introduce un po' in un tema filosofico, insomma lei è un filosofo, conosce molto bene la questione. Qualcuno ha fatto notare che sempre più negli ultimi tempi si antepone questo valore assoluto, che è il valore della vita biologica, e cioè della durata della vita, magari anche trascurando un pochino il senso della qualità della vita, basta che si viva sempre di più. A questo un po' ci spinge, negli ultimi anni ci ha sempre più spinto la società. Allora, questo è un tema molto profondo, ovviamente, professor Mancuso. Non so se lo si può trattare in poche battute, ma è quello il valore a cui dobbiamo aspirare, la vita biologica da preservare sempre e comunque? La vita è sacra in tutti gli aspetti, ma la vita è, si dice in tre modi, in greco, che è la lingua del pensiero, è bios, quindi esiste una vita biologica, poi è zoe, ed esiste una vita una vita animale, zoe, zoologia, passionale, potremmo dire, e si dice psuche o anche nous, che è la vita della libertà, la vita della coscienza, la vita psichica in quanto capacità di avere un'anima, ecco, di essere persone che hanno una libertà interiore, quindi la sacralità della vita. Ha certamente a che fare con la dimensione biologica, ma se non arriva e non tocca la dimensione della coscienza morale di ciascuno, quello è il vero e proprio rispetto. Forse questa terza vita, questo terzo aspetto l'abbiamo un po' tralasciato, no? L'abbiamo un po' tralasciato. Il Buddha non lo tralasciava, e il Buddha si caratterizza per essere un medico, in quanto guardando gli esseri umani con quell'occhio clinico e estremamente libero da se stesso, perché non voleva convertire nessuno, voleva guarire, e vedeva che tutti noi, io che parlo, lei che mi ascolta, gli altri che mi ascoltano, tutti noi soffriamo, ciascuno alla sua maniera, ciascuno per cose diverse o anche per cose uguali, soffriamo. Questa è la radice proprio dell'esistenza, non siamo a nostro agio della vita, c'è disagio. E quindi questa è la prima nobile verità del Buddha, e tutto il suo messaggio è stato un tentativo di, se questa è la diagnosi, se offre una terapia, è il nobile o duplice sentiero mediante cui guarire, il cui cardine di fondo è la rettitudine, perché lui parla di questi 8 passaggi, il cardine di fondo è la giustizia, ecco, e la conoscenza, è l'unione di queste due cose, giustizia più conoscenza, perché se io non conosco rimango preda dell'ignoranza, anche quello che ritengo giusto in realtà non lo torniamo è, sempre lì. Torniamo sempre lì. Ma la stessa esperienza di Gesù in qualche modo non dimostra che lui stesso ha sacrificato la sua vita biologica in nome di qualcosa di più importante? È chiaro, sì, si può proprio dire così. Poi che sia stato lui a sacrificarla, come dicono i testi, o che invece lui non volesse morire e tuttavia fedele, diciamo così, alla sua visione, di rivoluzione, di cambiamento, di lotta contro le ingiustizie, così via, fosse stato poi preso dai poteri, sia quelli politici e sia quelli religiosi, e portato alla fine che sappiamo, ma rimane il fatto che non si tirò indietro. Sì. Io sento un rumore adesso. Sì, sì, no, la sentiamo bene, professor Mancuso. Senta, oggi sul Corriere della Sera Nando Pagnoncelli fa un sondaggio secondo il quale il 61% degli italiani è stanco di queste misure restrittive. Qua c'è un po' la sensazione che questa malattia, se non ti colpisce o negli affetti più cari o personalmente, si faccia fatica a capirla, perché uno si sente solo un po' limitato, un po'. Molto limitato in tante libertà, e quindi sembra un po' un leone in gabbia. Ecco, il tema della libertà personale, del bene collettivo sociale, come lo svisceriamo? Lo svisceriamo dicendo: sei stanco di queste misure, va bene, rimani stanco e vai avanti, obbedisci anche se sei stanco, come uno che è in montagna. Trovi, ci sono stanco, sei a metà strada, bene, sei stanco, ma non devi andare avanti lo stesso. Cioè, noi dobbiamo smetterla, secondo me. Io poi non è che Platone parlava del popolo come di un grosso animale a cui tutti quanti fanno le riverenze e così via continuamente. Ma se manca quella visione, uno continua. La visione è quella che dice: bisogna arrivare lì, alla cima, è la cima, e sei sul sentiero di montagna, la cima in questo caso è la sconfitta di questa pandemia. E come si fa a sconfiggere la pandemia? Con queste restrizioni. Sei stanco di queste restrizioni? Pazienza. Vai avanti, cammina, metti un piede dietro l'altro e cammina. Questa. Perché non ci sono possibilità. La metafora della salita in montagna è bella, perché insomma, è proprio un po' così. Stiamo scalando. Però forse montagna. Questa stanchezza deriva anche dalla mancanza di senso di comunità. Cioè, se il senso. sì, e dal disorientamento, chiaro, e dal disorientamento, dal fatto che nessuno ci dice, ci guida. Noi dobbiamo stare attenti quando diciamo guida, perché pensiamo alla vita, guida, guidare, deducere, dux, führer, e vuol dire pure guidare, però anche leader vuol dire guidare in inglese, leader, e ne abbiamo bisogno di leader. Cioè, abbiamo bisogno di avere visione, appunto, di un politico che abbia una visione, e ti conduco lì. E invece, professore, la spiritualità in questi tempi dove la collochiamo? Perché oggi leggevo su Repubblica che anche la rivelazione che anche Giorgio Bocca, che tra l'altro è morto proprio questo giorno, cioè ricorre la morte, in punto di morte, ha chiesto una cerimonia religiosa. Adesso, poi ovviamente Giorgio Bocca era fortemente laico, ne ha fatto, come dire, un manifesto durante tutta la sua vita. Ecco, e in tempi così difficili la spiritualità viene, riemerge oppure viene... riemerge la spiritualità, che noi dobbiamo distinguere dalla religione. La religione è una forma, le religioni tra l'altro, no? Una forma di coltivazione della spiritualità. Esiste anche una spiritualità laica. Cosa vuol dire spiritualità? È coltivazione della propria anima, della propria interiorità, del proprio giardino interiore, perché sia pulito, perché non ci siano erbacce. Il grosso problema di oggi è l'aggressività, la rabbia, che deriva per la gran parte dalla paura, e questa cosa genera aggressività, cattiveria, diventiamo cattivi, diventiamo incapaci di visione, e incapaci anche di solidarietà, nel senso proprio di quella generosità, di quell'attenzione. Esiste uno sguardo impaurito, quindi incurvato, quindi incattivito, quindi prigioniero. La radice di cattiveria è captivitas, è la prigionia, la cattività, la prigionia. E la spiritualità è quell'ottimismo di fondo, rispetto alla capacità della natura umana di non essere cattiva, di non essere prigioniera. Se non si coltiva questa cosa, uno dice l'essere umano è pessimo, è cattivo, è la belva più... è vero, possono essere così, ma ci sono anche esempi di esseri umani, non so, io quando devo dire queste cose penso immediatamente, se essendo di origine siciliana, penso immediatamente ai magistrati antimafia, ho subito in mente le immagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oggi possiamo dire Rosario Livatino, possiamo dire anche ieri, ma insomma, a maggior ragione per l'attualità. Cioè, gli esseri umani possono essere anche questi, possono essere i mafiosi che ti uccidono, possono essere i magistrati. Chi vuoi essere tu? Questa è la domanda che ognuno dovrebbe porre: da che parte giochi, in che squadra stai? E per giocare nella squadra, chiamiamola giusta, chiamiamola della giustizia, occorre trovare una fonte di alimentazione in cui, da cui andare a far benzina, carburante. Perché non è così semplice, mentre la strada quell'altra è naturale in un certo senso, sono gli istinti più bassi, questa si sale, è una strada che ti fa salire anche sopra di te, e occorre trovare carburante, dove l'attingi? E ciascuno avrà il suo distributore, uno avrà il cristianesimo, l'altro il buddismo, l'altro, ma quello che conta è il carburante per salire anche sopra le proprie imperfezioni. Questa è la mia visione della spiritualità. Professore, noi la ringraziamo moltissimo, ripeto, Vito Mancuso, se volete, è teologo, è filosofo, se volete leggere anche il suo ultimo libro per Garzanti, I Quattro Maestri, insomma un esame di tutto ciò che Socrate, Buddha, Confucio e Gesù hanno detto e fatto, attualizzandolo. Ecco. Professore, grazie davvero, buon grazie Natale per essere stato con noi, Vito Mancuso. Insomma, dopo parole così... Voglio andare a controllare una cosa oggi. Se i distributori di spiritualità sono chiusi durante il lockdown o rimangono aperti? Perché forse non era specializzato, non era specificato nell'ultimo DPCM. Magari fanno sciopero, sai che c'è sempre lo sciopero, e quando sciopero 3 giorni di seguito, anzi, devo chiedere al distributore Piazza Udine se è anche un serbatoio di spiritualità, sì. Ma non credo, però sarebbe bellissimo, ecco. È molto bella questa immagine che ci ha dato il professor Mancuso. Non andate a dare 20 euro di sospeso di spiritualità al 20 non me le hanno mai date, massimo 10. Andiamo un attimo in pubblicità, ragazzi. Oggi abbiamo una puntata ricchissima. Ci sono dei personaggi. Tra poco andremo a Budelli, dall'eremita di Budelli. Poi avremo con noi oggi Andrea Bocelli. Avremo con noi Yuri Chechi. Avremo con noi Fabio Treves. E vabbè, quasi quasi stiamo qua fino al 26 in diretta. Chi se ne frega, dai. Uno, nessuno, 100 Milan. We'll be right back. Milan, non fatevi superare per nessun motivo da quegli altri, quelli vestiti di nero e azzurro, perché per noi Gobbi è una stagione nera, ma nera, ma nera, ma nera. Milan, buongiorno. Guarda, dopo quello che ho visto ieri al 93esimo, le posso dire solo una cosa: ci avete più culo che anima. Ah. Comunque ve lo meritate, non c'è niente da fare. Ve lo meritate, sono un interista, complimenti. Ci rivediamo il prossimo anno e speriamo bene di superarvi prima o poi. Io pensavo un laziale io. Auguri a tutti voi. Gufaccio, auguri Milan, auguri Leonardo, passate un buonissimo Natale. Manera, sei un vero rivoluzionario, sei venuto a lavorare in un prefestivo di mattina presto e in pieno lockdown. Din, din, vai din. Così Manera. Din, din, din. Bellissimo il gol di Teo Hernandez di testa, veramente bello, un gran gol di testa, perché non è che tutti i gol di testa sono così. Quello di Teo Hernandez è stato un gol meraviglioso di colpo testa. Di testa di Hernandez! Bello, in pieno bello, recupero! Vabbè, in pieno recupero, dai. Partite durano. Allora, ringraziamo tutti coloro che ci hanno scritto delle bellissime parole di Vito Mancuso. Effettivamente sì, anche per me è un bel regalo di Natale, lo ringrazio ancora il professor Mancuso. Poi si può essere d'accordo o no, ma insomma, come è chiaro nell'esposizione, nell'esporre anche in maniera dotta, un po' alta ma comprensibile, quella che è la vita di tutti noi. La cosa bella, se posso dire, di Mancuso, io ho letto il suo penultimo libro, è che dà un senso di religiosità anche a chi non è credente, leggendo i suoi libri. Perché ci ha detto, sì, è spiritualità, sì, è spiritualità, che è diversa proprio dall'essere fedele. Mm-hmm. No? No, ma l'ultimo no, non l'hai letto, male. È appena uscito. A novembre. Sì, è novembre, siamo a dicembre, ho tempo di organizzarmi. Incredibile. Vabbè, io ieri ascoltavo da Simone Spezia a Roberto Perotti che snocciolava tutti i dati della finanziaria. Oggi leggetevi l'articolo di Repubblica di tutte le mance mancette, sai che arrivano le mance malcette, per esempio. Ho sentito che c'è un fondo, sì? Di 3,8 miliardi, sì, che viene destinato proprio nella legge di bilancio, 800 milioni, per soddisfare queste mancette, sì, per i singoli parlamentari, diciamo, per avere 3,8 più 800 milioni, più 200, quindi fa 4,6. Da destinare ai collegi dei vari parlamentari, sì, che in sé dovrebbe essere cosa, però, per il sostegno delle categorie colpite dal Covid, cioè viene certo, questi 4,6 miliardi, invece finisce un po' a stoccaggio di vini di qualità, scuole innovative nei piccoli comuni delle regioni meridionali, leggo l'articolo di Repubblica, la medicina clinica termale, insomma tutta una serie di cose. È importante. Tu sei mai stato alle terme? Sì. Bellissimo. Sì, sì, per carità. Io, anzi, la maggior, adesso si parla di 18 miliardi di là, 8 di qua. Ecco, io le destinerei tutti alla medicina termale, anzi alle terme tutte, in generale. Alle terme. Facciamo 200... Salutiamo tutti gli operatori del settore 200 delle miliardi alle terme, che si chiamano spa salus per aquam, sì, no? Sì, ti sì, aprono, sì, tutti, certo, i pori, così poi quando esci per strada lo smog può entrare meglio, ecco, nei pori aperti. Vabbè, dai. Bello andare alle terme. Andiamo a Budelli, altro che alle terme, a Budelli, l'isola dove troviamo il nostro Mauro Morandi. Buongiorno Mauro, come sta? Buongiorno a tutti voi. Si dice Natale in solitaria, ma chi se ne frega, Mauro Morandi è da sempre in solitaria, fa della solitudine un punto di forza. Ricordiamo per chi ancora non lo conosce, è sull'isola di Budelli, unico abitante da quanti anni? 31. C'è tutta la diatriba, mandiamolo via, ma lui è ancora lì, a Budelli, a passare il Natale. Sì, sto come? Sto resistendo. Aspettiamo che il grande capo, il ministro dell'ambiente, decida. Decide. Però adesso credo che sia impegnato in tutt'altre cose con questo problema del virus. Eh sì. Virus che a Budelli non c'è, ovviamente. Non c'è, ovviamente. E a Natale cosa si fa? È un giorno come gli altri per Mauro Morandi oppure? Ma sì, cosa vuoi mai? Io, ormai sono anni che io non festeggio più le feste. Festeggiare le feste in questo modo qua, in un modo compulsivo, una società di consumi che bisogna consumare, correre, muoversi. Io invece apprezzo molto la solitudine. Ecco, perché Mauro Morandi ha fatto anche questa scelta un po' anche contro questa società, l'ha fatta infatti, tanti anni fa, questa società che porta a consumare, a spendere, sì, capitalista, sì. Dai, diciamolo, capitalista. Sì, ma infatti l'economia è una società che si basa sull'economia. E perciò evidentemente stiamo andando veramente a ramengo distruggendo il mondo. Eccolo qua, detto su Radio 24, no? Cioè, adesso quando, lei quando ha visto l'ultimo bipede? No. Diciamo una settimana fa quando mi hanno portato la spesa. Ma hanno portato qualcosa di natalizio o proprio zero? Chi se ne frega? Ma sì, chi se ne frega? No, non mi interessano queste cose qua. Pensa al mio albero di Natale, quando eravamo bambini, noi ci mettavamo aranci, non mandarini perché costavano troppo, e poi facevamo dei cioccolatini con la carta stagnola in modo che sembrassero cioccolatini. Adesso invece attaccato all'albero di Natale ci sono gli smartphone da 700 euro, da 1000 euro, ci sono cose così, ma allora si era un po' più felici. Un po' più felici, ecco. Però ha visto la natura cambiare in questi giorni, perché poi la festa del Natale si rifà alla vecchia festa del sole. Ha visto la natura cambiare in questi giorni a Budelli? Insomma, c'è qualche trasformazione a dicembre nella sua isola? Normalmente la natura qui è abbastanza salvaguardata. Diciamo che è proibito andare sulla spiaggia, è proibito fare il bagno all'interno di questa baia. Però tutt'attorno non è così, tutt'attorno c'è ancora questa smania di vedere continuamente cose nuove, non godere dell'immediatezza del momento, la bellezza del momento. La gente non sa vedere, vuole semplicemente consumare anche la bellezza della natura, consumarla guardandola in superficie, facendo foto, ma non ne gode fino in fondo. È quello che io sto cercando di comunicare al mondo intero. Però Mauro, la natura è proprio quella che in questo giro, il giro Covid, ci ha un po' fregato nel senso, perché noi anche non la rispettiamo, c'è una grande antropizzazione, cioè adesso, però è la natura che se noi non rispettiamo è da lì, dalla natura, no? Dai pipistrelli ormai lo sappiamo. Infatti è il rispetto della natura, salvaguardando la natura salvaguardiamo anche noi stessi, ma infatti non ci rendiamo conto di questo, noi stiamo stuprando la natura, non la stiamo godendo. Volevo chiedere se può mandarci un barattolino di sabbia rosa di Budelli. Sì. Qui a Radio 24, Monterosa 91. Non ce n'è più. Esatto. Ormai non ce n'è più, l'hanno portata via tutta. Scusa, noi siamo effettivamente in via Monterosa, quindi è facile. A Milano, giustamente Manera chiede. Barattolino di spiaggia, ci sarà ancora un po'. Non posso pensare, io l'ho vista la spiaggia della Rosa nel 1987, quando si poteva ancora arrivare lì a Budelli. E io allora la vidi. È arrivato prima te a Budelli di me. Ecco. E non posso pensare che adesso non c'è più completamente. Ma no, non c'è più, perché adesso anche i venti dominanti, quelli che ricreavano la sabbia, quelli che trasportavano questo materiale rosato sulla spiaggia, i venti sono modificati, non sono più quelli da ponente, ma sono più di 10 anni che sono solo venti da levante, che sono i venti che erodono la spiaggia e non apportano materiale. E la natura si è modificata e noi abbiamo contribuito un bel po' a modificarla, perciò adesso, prima che torni rosa, un minimo di rosa, bisogna aspettare che la natura si cambi e ritornino i venti da ponente. Ma fino a che ci sono solo venti da levante, specialmente d'inverno, qua il rosa non ritornerà purtroppo. Allora Mauro, intanto noi ti mandiamo un abbraccio al nostro Mauro Morandi, definito l'eremita di Budelli, insomma lui che dal 1989 è lì, è sull'isola di Budelli. Grazie per i messaggi che ci veicoli e buon Natale, andiamo al traffico. 1 nessuno 100 Milan. Decorations are on by the fire. Everybody's singing. All the bells are ringing out. And it's Christmas all over again. Yeah, again. Il politico medio italiano non vede al di là dei tre giorni, non dei 30 anni, dei tre giorni. I haven't seen him in a long, long time. Yeah, I kinda missed him. Eccoci qua alle 9:48 minuti, un grande regalo di Natale perché è venuto a trovarci in studio il clown Neronello. Oh, l'amico dei bambini. Buongiorno. Yup. Buongiorno. Esco da casa mia già truccato da clown e appena arrivo nella casa dove è la festa faccio subito un bel indovinello per i bambini. Per esempio, bambini, qual è lo scrittore più venduto a Natale? E Alberoni. Grandi risate. Alberoni. Purtroppo però al momento gli assembramenti sono proibiti e anche le feste a casa dei mocciosi figli, ecco, del demonio bambini. E quindi mi sono reinventato scienziato, lo scienziato Francesco Fagone. No, ma come Fagone, professor Fagone? Do consigli professore. Spiccioli, sono scienziato da social, laureato con 110 like. Oggi voglio regalare a tutti gli ascoltatori un consiglio da scienziato per abbattere il coronavirus a partire da una domanda. Perché in Lapponia, dove abita Babbo Natale, il coronavirus non c'è? Non semplice, c'è. In Groenlandia c'è tanto ghiaccio, quindi le persone per spostarsi devono pattinare e in questo modo riescono a schivare il coronavirus. Ma possiamo farlo così. Anche noi. Ma non è basta così. Sbrinare il frigorifero e trasformare la nostra casa in un campo da curling. È un metodo scientifico che funziona molto bene perché pattinando dalla cucina al bagno spazzeremo via facilmente il coronavirus. Ma c'è un'altra cosa che funziona contro il coronavirus, che cosa? E cioè... stare a casa, ignoranti all'ascolto, ignoranti. Quasi tutti quelli all'ascolto non sanno nemmeno cos'è un orbitale molecolare. Soprattutto i laureati in scienze politiche. Non sapete cos'è un orbitale molecolare, pretendete di tornare alla normalità. Prima imparate cos'è un orbitale molecolare, poi torni alla normalità. Io per esempio lo so perché ho studiato. Ripetete insieme a me: lode a te, o virologo. Dite la verità che siete ancora in giro per negozi a fare shopping natalizio, a sgomitare per una candela allo zenzero. Cosa regala mia suocera, cosa regala mio cognato, la cugina mio cognato, niente. Perché dovete solo stare a casa, capito, ignoranti? Allora, ignorante lo dice a tua sorella. No, abbandono lo studio, no, abbandono lo studio. Non l'ho interrotta quando parlava lei, non mi interrompa mentre parlo io. Chi dice Garogio dice verità, no, perché io ho orecchio per intendere, intendo. Al contrario, certi politici fanno finta di non avere le orecchie perché sono asserviti al poteri forti. Io per Natale vorrei una cosa, che cosa? Che nessuno mi dicesse cosa fare, a cominciare a mia moglie fino al governo. Una mi dice di togliere i calzini, sì, mia moglie, quegli altri di tenere la mascherina. Possono un posso decidere da solo cosa mettere sui miei piedi. Per me lei può proprio allora abbandono lo studio. Morse tuo, sì? Morsi io, se tu mordi no, ti mordo anch'io. Ma lo dico in latini, studi. No, lo dico in latini, lei. C'è una cosa che i latini sapevano fare, sono i dizionari. È ora di finirla con l'Europa che sotto la guida di Soros e Bill Gates e Bill Gates cerca solo di sotto. Rida, vado a prendere un Ferrero Rocher se si diverte così tanto, va bene. Sotto la guida di Bill Gates cerca solo di sottometterci economicamente perché noi mentalmente siamo superiori e io ne sono la prova. Mamma mia, che volgarità! Che volgarità! Fernando Ferruccio Ronchi Marocchini. Il nostro inizio a Pannocchio di Castelbiondo non è un ristorante, ma è una parentesi di assoluto tra le pieghe delle emozioni. Vabbè, e io non intendo ospitare tavolate di parenti con maglioni in lana sintetica che si strafogano di lasagne con in sottofondo le canzoni Mario Biondi. Non amo il panettone, sono più uno da Pandoro. La montagna è bella per l'atmosfera anche se non so sciare. L'albero lo faccio tutti gli anni ma il presepe no. Mamma mia, io starò a casa con la mia vestaglia di seta, ecco, le mie babbucce di madrepella. E intanto vi auguro un 2021 pieno di felicità, leggerezza e tanto cashmere. Il cashmere. Kashmir, no, Kashmir, no. E su tutti i beni che possedete, no, anche nel 2021 dovrete pagare le tasse, le tasse, le tasse, perché da gennaio sono in arrivo le cartelle esattoriali. Oh, dirigente ragionier Crosta, signori, Leonardo Manera. Eccoci qua. E salutiamo anche Marianna Stefanucci che collabora, sì, con me nel, nei personaggi, nella scrittura dei personaggi. Ormai. E buon Natale. E buon Natale anche a Marianna. Insomma, un meglio del meglio o il peggio, peggio nel caso di Garosio, diciamo la verità. Signori, alle 9.53 minuti, guardate che c'è Roberto che è dalla provincia di Vercelli, ma in questo momento lo ringraziamo, l'abbiamo raggiunto, si trova esattamente dove? Buongiorno Roberto. Un saluto festoso a tutti, oh, per tornare a un vecchia citazione dal 2000. Sono un tuo fan della prima ora, da Andalo, dal capodanno di Andalo in Trentino in poi, sei stato il mio mito assoluto. 2001-2002, due capodanni ad Andalo, insomma, ricordo bene. Da quegli anni. Sì, allora esattamente, infatti ci troviamo qua appena sbarcati a Calais, da dove dopo, sì, esatto, dopo praticamente 2 giorni e mezzo di... diciamo stop forzato, per essere gentili. No, perché Manera lo diceva all'inizio, proprio un pensiero, come abbiamo fatto un pensiero, e ringrazio il trasportatore che sta consegnando regali per una piattaforma celebre in Italia, e lo saluto, un pensiero a tutti gli autotrasportatori, a tutti coloro che sono stati, ma si può dire, sequestrati, ovviamente, vista, sì, la situazione. Lo possiamo dire, visto che è Natale, fosse stato un altro periodo dell'anno, magari avremmo potuto essere un po' più incisivi verso Quindi eravate a Dover, Esatto. Sì, esattamente, io mi sono fermato lunedì sera, prima di Dover, perché praticamente ho effettuato le consegne in Inghilterra lunedì, sono arrivato prima di Dover lunedì sera e niente, si hanno tenuti fermi fino a data da destinarsi, e quella data da destinarsi è stata sostanzialmente questa mattina. Dalle 2 in avanti c'era uno schieramento di esercito che con dei tamponi veloci ci veniva appunto a tamponare, nel miglior senso della parola naturalmente, in questo periodo storico. Però sì, ce l'avete fatta adesso. A un certo punto abbiamo avuto gli esiti fortunatamente negativi, dei e sostanzialmente ci hanno permesso di raggiungere l'Eurotunnel, chi l'Eurotunnel nel mio caso, i traghetti in altri casi, finalmente siamo sbarcati in Francia. Roberto, allora facciamo così, buon Natale, anche se c'è stata questa disavventura, lo sblocco c'è stato, ma un pensiero davvero a tutti quelli che sono quindi bloccati, oggi rientra in Italia? Lì. Sì, sì. Oggi, perché purtroppo le ore di, purtroppo per fortuna le ore di guida che ci permettono di essere molto attenti in questo mestiere non mi permetteranno di arrivare stasera, ma insomma, domani spero per il panettone non dovrei esserci. Grazie Roberto. Noi vogliamo concludere la prima ora, non ci siamo dimenticati, ah, ancora di Nolfi. Meno io 10. non risponderei. Meno 10. Che dolore. Stavolta non ti abbiamo neanche fatto lo squillo, proprio così ti abbiamo chiamato. Meno 10. Ho deciso una nuova linea, però. Brrr, che freddo. La nuova linea è che, poiché se non lo vincete voi, lo vince Linda, lo vince Antonio Conte. Sì. Allora sai che c'è. Ragazzi, forza Milan. Il problema è che non ce la fate, non tenete, questo è il problema. E quindi è l'anno. No, non voglio sapere. È l'anno dell'Inter. Il nostro è il 2020, è finito. Noi non è che giochiamo sullo scudetto. Abbiamo fatto l'anno solare 2020 primi. Basta. Ci ha dato lo il scudetto. Il record dei vecchi di voi. L'anno 2020, però. Marione, ti dobbiamo salutare. Buone ferie, buon Natale. Meno 10. Siamo al giornale radio con due ascoltatori. Vai. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Milan Manera, tanti auguri. Ho acceso la radio adesso e mi sono perso almeno 10 di anni di Adinolfi. Grazie e buon Natale. Ma una telefonatina di auguri al nostro Sora Adinolfi. Ricordai sto meno 10? No. C'è la Noglu. Colpo di testa di Hernandez! In pieno recupero! Il Milan rimette la freccia! Uno, nessuno, 100 Milan. Ascoltatori, anche la vigilia di Natale, ancora un'ora insieme a voi. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan e dal nostro Leonardo Manera, che è qua, straordinari prenatalizi anche per Manera. E poi vedo uno studio anche affollato, cioè, ci sono... Anch'io volevo salutare tutti gli ascoltatori. Sono tornato per salutare tutti quelli che non vedevo da un po', col Falco e il Gabbiano Reloaded. Ma non ci sono io, c'è anche Precacchietto Nato. Sono venuto a dare uno schiaffo in testa a tutti, soprattutto a quelli che mi fanno schifo come persone. Se non vi comportate bene, tenete nella mascherina a fare il tappone. Se non fate tutto il tappone, anche io ho fatto tappone. Ho preso la bicicletta, ho fatto tappone. Ho preso la bicicletta. Ho fatto tappone, ho vinto il Gran Premio della montagna. Poi fatto il Gran Premio della montagna. Poi sono andato al medico, ho detto: come senti? Stanco. Ho detto: stanco, ho fatto il Gran Premio della montagna. Dice: la positivo, no? Che ho fatto tappone, ho fatto il Gran Premio della montagna. Mi fa schifo come persona. Allora dovete stare attenti, dovete controllare. Perché qualsiasi cosa potrebbe provocarvi danni collaterali. L'importante in questo periodo è saper sfruttare i vostri vicini, andare a chiedere tutte le cose. Per stare bene. Grazie. Ma perché anche noi è pieno di italiani, che è trattato di peso stracomunitari. Capisci che al momento, no, io non ho niente contro i stracomunitari. Vuoi dare panettone ai negri, vuoi dare le case ai negri, diamo pure le case ai negri. Però devono diventare bianchi, capisci? Ma no, Battista, ma non dica. Veramente mi sembra un messaggio veramente aggressivo, no? Cioè, bisogna essere come le porte, finestre, che a volte sei tutto aperto, a volte sei tutto vasistas. Noi siamo sempre un po' aperti come i vasistas. Voi le sardine, le sardine. Non condivido questa... Aspetta che mi sta venendo carosio, ma ricette facili da Giorgia! Ricordatevi di comprare il panettone, perché il panettone è la vera ricetta italiana di Roma, il panettone di Roma! No, ma come? Perché la capitale d'Italia è Roma, è Roma! E il Natale si festeggia solo a Roma! Vabbè, però il panettone. Leonardo Manera, signori, eccolo qua. Quanti ne ho fatti in questi anni? Tanti, bravo Leonardo. Insomma, siamo con voi in questa ora straordinaria per arrivare al Natale. Io la voglio iniziare con una, mettendo in onda una performance che davvero mi ha colpito. Allora, che Andrea Bocelli abbia una voce straordinaria, questo non lo scopriamo certo noi qui. Ma insomma, sentire anche la figlia Virginia in questa versione dell'Alleluia che hanno cantato al Teatro Regio di Parma, beh, io voglio iniziare così. Ah, mi hai portato la chitarra. Yes. Ma è accordata bene? Sì. Sicura? Sentiamo. Facciamo una canzone insieme? Sì. Allora ci sediamo. Vediamo un po' se Babbo si ricorda ancora qualche accordo. Sei pronta? Sì. Via. Well, I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. When you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the mighty fourth, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia, che in lacrime santo nome tuo dirò, un nome che oramai non ho paura che risuoni dentro me. Di luce esplode la poesia come una sacra sinfonia che intona per my best, it wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch, I've told the truth, I didn't come to fool ya, and even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of song, with nothing on my tongue. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Che dire, cantano che dire. Bene però, cantano bene, dico. Sono intonati, hanno una bella voce. Andare a Sanremo. Hanno una bella voce, sono intonati. Siamo qui, guardo la regia, non so se ci siamo. Sì, siamo pronti. Andrea Bocelli, maestro! Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, si diceva con Manera. Sono intonati però questo padre e figlia. Speriamo, almeno quello. No, però lei... Poverina è stata brava perché è stata caricata di una grande responsabilità quella sera lì ed è stato proprio Franco Dragone che l'ha voluta così impegnare con un ruolo importante, quasi più del mio. Io mi sono sentito un dettaglio in quell'evento lì perché tra le scenografie di Franco e l'esibizione, insomma tutta il lavoro che ha fatto la piccola Virginia, insomma io ero... Era un dettaglio una volta tanto. Questo no, ma come ho detto in introduzione, nessuno aveva dubbi sulla voce di Andrea Bocelli, però è stata davvero una stupenda sorpresa, insomma, come si suol dire è di famiglia. Ma Virginia ha proprio passione per la musica, un po' rivedo nei suoi comportamenti i miei di quando ero bambino, no? Lei quando vede uno strumento lo deve prendere in mano, deve provare, no? Le piace lo studio del pianoforte, che è una cosa pesante un po' per tutti i bambini, di solito bisogna costringerli, no? Di fronte al pianoforte, invece lei ci va, anzi quando è l'ora di pranzo a volte bisogna, Virginia dai che a pranzo suoni dopo. E invece per un ragazzo che volesse studiare canto, qual è l'età giusta per cominciare? Perché so che alcuni dicono che non va bene iniziare troppo presto. No, presto no, perché... Cioè, se si intende il canto, se si intende lo studio del canto operistico, sì, bisogna cominciarlo quando siamo adulti, quando la voce è formata. Però si comincia da bambini a studiare la musica, perché oggi se uno vuole cantare in teatro, presentarsi davanti a un direttore d'orchestra di chiara fama, bisogna che la musica la conosca. Quindi non è più come una volta. Oggi bisogna conoscere la musica e conoscerla anche abbastanza bene. Sì. Allora, Andrea Bocelli, i progetti sono innumerevoli. Sono intanto da un mese circa, un mese abbondante, è uscito l'ultimo disco, Believe, che ovviamente come al solito ha scalato tutte le classifiche, in America non ne parliamo. Il leitmotiv è la fede, ma davvero questo legame con la fede, poi siamo sotto Natale, ci sta, maestro, è così sentito, lo senti così profondo, lo senti così... Ma io sì, perché diciamo risponde a una domanda che mi sono fatto da quando sono all'età di intendere di volere, o poco dopo, insomma, no? Perché ho attraversato come tutto il periodo in cui affronti le cose con superficialità e dici, all'epoca quando ero adolescente amavo definirmi agnostico, mi piaceva questa parola, è un po' difficile, no? E poi però la domanda da dove vengo, cosa ci faccio qua e dove vado, prima o poi te la fai, no? Mm-hmm. E allora sai, la risposta è che alla fine ti trovi davanti a un bivio, o pensi di dover attribuire tutto al caso, oppure ci deve essere qualcos'altro. Allora mi sono immaginato, come ho detto altre volte, no? Due uomini che si trovano davanti alla pietà di Michelangelo e domandano chi l'ha fatta, e ha risposto loro che l'ha fatta un signore, Michelangelo, tanti anni fa, eccetera. E c'è uno che dice, ma io non ci credo, non l'ho visto, non preferisco pensare che siano stati bizzarri i disegni del caso, la pioggia, gli agenti atmosferici, no? E l'altro dice invece, ma perché no? Sicuramente qualcuno deve averla fatta, perché è troppo perfetta, è troppo bella. E allora io sono il secondo. Io sono il secondo, è bellissimo. E poi tra l'altro, tra i vari progetti, domani a Natale c'è il concerto di Natale, non si ferma mai Andrea Bocelli ad Assisi, il concerto dopo, no, perché dopo il parco, chi si ferma è perduto, no? Cioè, non ci si deve fermare, no? È pericoloso fermarsi, secondo me bisogna darsi da fare nella vita, dare un senso a tutte le nostre giornate, almeno questo è quello che io cerco di fare, anche per dare un esempio, no? Quindi, perché i ragazzi, come si sa, chiudono spesso le orecchie alle parole, ma aprono gli occhi sugli esempi. E allora, se padri, bisogna fornire, proporsi come esempi positivi, ecco. La musica può essere un veicolo per arrivare anche a persone alle quali, anche per parlare di temi importanti, no, in questo caso, cioè per avvicinare alla fede persone che magari non sono interessate alla questione. Sicuramente la musica ha anche questo ruolo. Ma la musica è un dono del cielo, e se viene usata bene, se si fa uso di musica e non abuso, perché allora può avere anche poteri terapeutici la musica, ormai si sa, ce lo dice anche la scienza. Certo è che se si ascolta musica sempre e comunque, qualunque tipo di musica, di valore e non, non so, in macchina, in camera, mentre si mangia, persino in ascensore, in bagno, alla fine i benefici effetti della musica non ci sono più. Sì. Tra l'altro Andrea Bocelli, e domani nel concerto ci sarà anche un soprano che ha ottenuto una borsa di studio del Royal College of Music di Londra, a cui ha collaborato anche l'Andrea Bocelli Foundation. Perché? Sì, l'Andrea Bocelli insieme a un'altra fondazione che è la fondazione di la community di Jamil, Mohamed Jamil, il nostro amico, che è la persona che mi suggerì a suo tempo l'idea di istituire una fondazione, no? Perché uno, nessuno, 100 Milan. Santa Claus, go straight to the ghetto. Hitch up your reindeer and go straight to the ghetto. Santa Claus, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find, the kids are gonna love you so. Leave a toy for Johnny, leave a doll for Mary, leave something fruity for Donnie, and don't forget about Gary. Ma nera è venuta a lavorare perché lo pagano di più. Go straight to the ghetto. Ma nera, lo sanno tutti che oggi sei andato in radio solo per prenderti i regali. Lazzaron. Tell him James Brown sent you. Auguri, auguri, Milan e Manera, dal vostro riparatore ripara tutto e anche addirittura Trapani e affini. Ciao Alessandra Bologna, Asgan Way. Buone feste a tutti voi, egregio signor Milan, Manera, carissimo Leo, grande, siamo spesso la trasmissione e tutto lo staff dello studio. Auguroni, abbiamo legittime aspettative tutti che il prossimo anno sia migliore. Buone feste. Grazie anche a voi, ovviamente. Auguri a tutti quanti. In questa vigilia di Natale ti hanno sgamato, caro Leonardo Manera. Ma io non ho visto nessun pacco per me. È strano, perché a voci che ho sentito dovrebbe esserci qualcosa per me che invece non ho visto in giro. È stato asportato evidentemente da qualcuno. Quindi pensate cosa succede qui. Le persone gentilmente mandano qualche piccolo omaggio per me. E di quando furto? Ma io arrivo detto? Poi non trovo ma non nulla. Non è mai arrivato niente. No, non è vero. Io so, mi ha scritto il signor Nicolino. Che mi aveva mandato una cosa qui in radio. Anzi, Nicolino, se ti per ho caso detto che li rifiutano i pacchi, allora, in radio. Signor Nicolino, se per caso sei all'ascolto, per favore, telefona, puoi dare il numero, cos'è? Aspetta, 824 0024. Ecco, Nicolino telefona, di sono Nicolino, quello che ha mandato il pacco a Manera, vorrei sapere che fine ha fatto, perché no. Nicolino, sappi che il pacco che hai mandato probabilmente lo ha asportato. Ma questo è il numero per gli ascoltatori, non sono i numeri di chi ritira i pacchi, che non vengono ritirati per policy aziendale, quindi io te l'avevo detto. Sì, ma io non sono un giornalista, grazie a Dio. Ma cosa c'entra? e dovrebbe essere giù. Capito, o non qui... è che c'hai pacchi per i giornalisti o pacchi per... No, secondo me Nicolino me l'ha mandato. Nicolino sarà stato respinto. Non l'ha, ma non l'ha ricevuto indietro. Buono quindi qualcuno comunque, buono l'olio. Ecco, appunto. No, scherzo, non è vero, non è vero. Non ti, nessuno sì, è tutto, ti ha toccato è tutto nulla. Magna magna. Nessuno ti cioè, ha toccato io sono nulla. Il parafulmine al quale vengono mandati i pacchi. Poi quando arrivano i vari giornalisti quelli asportano. Il pacco asporto, il pacco asporto. Va. Ci sta accusando di furto, cioè è venuto sì. qui dopo mesi per accusarci di furto. Sì, sì, è esatto. Clamoroso, tutto questo alla vigilia di Natale, è una vergogna. Nicolino, una vergogna. Grazie, ti ringrazio anche se il tuo pacco è finito in altre mani e dalla prossima volta ti darò il mio indirizzo di casa. Ecco, meglio così. Allora signori, ma che personaggi straordinari quest'ora, dopo Andrea Bocelli ci ha raggiunto Yuri Checchi. Grande Yuri, buongiorno. Allora, ciao Alessandro, ciao Leonardo, ciao. Piacere. Devo dire che nei giorni scorsi, quando è stato diffuso il tuo video di un allenamento così, allenamentucolo che fai quotidiano, abbiamo detto, ma perché Leonardo Manera non fai un bel video anche tu e fate un bel allenamento challenge tra te e Yuri Checchi, così vediamo finalmente chi ha il fisico più coriaceo e il fisico migliore. Io sono d'accordo. Guarda che io adesso... Yuri ha accettato la sfida. Io ho accettato... dopo un'attenta riflessione, però Alessandro, dopo un'attenta riflessione ho accettato. Sì, però ci vuole un giudice, perché io non voglio che vengano emessi dei verdetti così a prescindere. Ci vuole un giudice che venga a controllare chi di noi due è la redazione. La redazione. No, ma secondo me Alessandro Milan è una delle persone più imparziali e preparate al mondo per giudicare la gara, quindi va bene. Non direi mai che Yuri Checchi ha il fisico migliore così a prescindere. A livello prestazionale anche, quante flessioni, quanti esercizi. Qual è l'esercizio che preferisci fare tra quelli così che fai a casa? Beh, dipende, sai, parte, cerco di variare, perché poi se fai sempre gli stessi esercizi, a parte che non va bene dal punto di vista tecnico, e poi ti annoi. Quindi insomma, avendo anche una esperienza di poter fare diversi esercizi da quello che ho fatto nella ginnastica, vario spesso. L'importante è cercare di sviluppare un po', cioè mettere lavoro un po' in tutte le parti muscolari del corpo, lavorare più sugli esercizi, lavorare in equilibrio con gli esercizi di tirata e di spinta, quindi le flessioni, i piegamenti, ma poi anche le trazioni, perché ma è importante, no? Lavorare su questi due aspetti, però diversificare è la cosa migliore. Sì. Ma secondo te lo sport fa bene o comunque fa male? Te lo dico perché ti cito quello che mi ha detto qualche giorno fa un ortopedico testuale. Mi ha detto: se non esistesse lo sport, io invece che andare al lavoro in scooter andrei in bicicletta. Come dire, tutti gli infortuni che uno si procura facendo sport mi permettono di guadagnare di più. Non è che ha detto proprio una castroneria, cioè io ho avuto penso 5 interventi chirurgici, sì, tutti per trauma sportivo, quindi ovvio che lo sport agonistico, lo sport che ho fatto io, che fanno diciamo alcuni sportivi appunto professionistici, è uno sport che in qualche modo ti può portare verso un infortunio, perché insomma non è che siamo nati per stare in croce sulle ali noi, o per fare il triplo salto mortale, o per correre 100 metri in 9 secondi, e quindi vai a stressare il tuo fisico in maniera particolare. Quindi ecco, forse quello tipo di sport magari non è il migliore per avere un benessere fisico, direi certo. Psicofisico, ma certamente lo sport è invece quello che si fa per stare bene, e quello va molto bene. Sì. Ecco, anche perché sì. A fronte dell'ortopedico di Manera, sai quanti cardiologi invece vivono sulla sedentarietà degli italiani, caro Yuri Checchi. No. Io sono guarda, un esempio proprio molto pratico, nel senso ho fatto lo sport e rifare le stesse cose, nonostante gli infortuni, la fatica, il dolore, perché avevo un obiettivo preciso. E quello, ora sto facendo un altro tipo di sport e mi permette di far bene con la mia età, perché questo sì che fa bene. Hai detto bene te, il cardiologo è sicuramente un medico che, se si fa una buona attività sportiva, una sana alimentazione, sicuramente ha meno da fare. Ah, ma il signore degli anelli Yuri Checchi ci ha sempre spiegato, per esempio, come il fatto che nelle scuole non si faccia più l'educazione fisica come una volta, banalmente come ricordavamo noi la pertica, la corda, il quadro svedese eccetera, ha portato a una progressiva e lenta io dico proprio devastazione di generazioni che non sanno fare le capriole, non sanno fare e poi adesso ci si è messo anche il Covid, necessariamente dobbiamo stare a casa, aumenta la sedentarietà, però si può fare qualcosa. Tu ne sei una dimostrazione pratica, ovviamente a livelli eccelsi, ma si può a tutti i livelli fare qualcosa, no? Essere attivi. Sì, allora guarda, per il discorso dell'attività motoria nelle scuole hai perfettamente ragione. Per tornare anche al discorso del benessere, io se non sbaglio recentemente ho visto una ricerca dove si evince che siamo la nazione con il tasso di obesità infantile più alto in Europa, che è un record davvero triste, brutto. E quindi anche lì si dovrebbe lavorare in maniera migliore, ma si parla tanto, poi si fa poco purtroppo. E quindi ecco, sulla scuola sì, e il fatto della sedentarietà è un problema, ma in questi periodi di chiusura anche i miei video sono anche un po' per stimolare le persone a muoversi a casa, ci sono opportunità per fare anche le attività diciamo un po' più basiche a casa, senza palestra, basta un po' di spazio o attrezzarsi con due sedie, un tavolino e già diventa una mini palestra, insomma credo che la sedentarietà sia davvero un grosso problema, soprattutto in questi giorni di festa dove io consiglio di mangiare assolutamente, io farò così, ma organizzarsi anche poi subito da oggi un allenamento il 27 per smaltire. Comunque a me dispiace non essere stato mai alle Olimpiadi, perché sono curioso di sapere cosa succede nel villaggio olimpico i giorni in cui non c'è la gara. Quello che si può dire, quello che si può dire. No, purtroppo, ecco, qui vorrei sfatare proprio un mito, purtroppo, che essendo io stato proprio più volte in un villaggio olimpico, non è del tutto vero. Cioè, o sono io un po' sfigato che non è mai riuscito, diciamo, a entrare in certi contesti, o se no non è tutto questo, diciamo, godereccio, no, a livello. Quindi no, ora a parte gli scherzi. È un'esperienza straordinaria, il villaggio olimpico è un'esperienza straordinaria dove ci saranno anche sicuramente degli momenti di flirt e di innamoramenti, ma c'è una grande concentrazione, la volontà di raggiungere il risultato sportivo, che devo dire che si vede un'atmosfera molto molto bella, serena. Ho visto esempi di una bellezza anche enorme, per dire, io ho visto cenare e pregare insieme musulmani con cristiani, israeliani con palestinesi, neri, bianchi, gialli, verdi, nessun problema. Cioè, è veramente una enorme lezione di vita, c'è una tolleranza del diverso, dell'altro totale, perché siamo lì nel rispetto delle regole dello sport e della convivenza, che è veramente molto bello. Poi se qualcuno riesce anche a fare altre cose. E ti è mai capitato di vedere una delegazione così che se la spassava un po' più delle altre, un gruppo di atleti un po' più liberi come disciplina, che uscivano di cioè, più? Cioè, manera quelle... vuol dire, non so, i liguri sono tirchi, quelli che se la spassano al villaggio olimpico. Ti è mai capitato di identificare un gruppo un po' più godereccio? Sì, devo dire che alcuni paesi sono un pochino più godrecci, diciamo, i latini sono ovviamente un pochino più godrecci, però noi italiani facciamo sempre la nostra bella figura. No, ma anche perché uno, dai, diciamo la verità, va lì dopo 4 anni di sforzo, di sacrifici, cioè non è che può vanificare tutto, poi magari quando se ha finito la prestazione, magari giustamente si dà un po' alla bella vita, però no, uno punta alle Olimpiadi come l'apice della carriera, non è che lo rovina per fare un po' il pirla, si direbbe a Milano un giorno. Ti assicuro che è proprio così, anche perché poi per una regola proprio del Comitato Olimpico Internazionale, dopo la gara non puoi stare tanto al villaggio olimpico, proprio per una questione di posti, quindi al massimo un giorno, chi è fortunato due, ma poi devi spostarti al villaggio olimpico, quindi è così, ma ripeto, è un'esperienza straordinaria in tutti i sensi. Tra l'altro 2021 ci saranno le Olimpiadi, speriamo di sì, Iuri. Le Olimpiadi si fanno al 100%, okay. In tutti i modi. Il problema è vedere come le faranno, perché sai, dipenderà dall'andamento della pandemia. Io sono sicuro che le cose miglioreranno, ma sai, se c'è ancora qualche problema può essere che ci siano restrizioni anche per chi vuole andare a vederle. Magari gli atleti saranno costretti a fare un po' di quarantena venendo da alcune parti del mondo. Ho il timore che sarà un'Olimpiadi un pochino diversa, ma che si faranno è sicuro al 100%. Certo. Grazie Yuri. Detto questo però non credo che Manera parteciperà. Ora, beh, non lo so, non ho più possibilità adesso, ho 53 anni, non so, in qualche sport potrei. Esatto, sì, è difficile individuare l'attività sportiva. Tiro con la carabina, tiro con la carabina, sì, si può fare. Tiro al piattello, potresti fare. È molto difficile anche quelli, sono anche molto difficili quelli. Anche quelli sport, credetemi, molto molto. Sì, sì, sì. Grande Yuri Checchi, buon Natale ovviamente al Signore degli Anelli, Yuri Checchi, per essere stato con noi. E, che dire? Tiro al piattello si può fare a qualsiasi età, non credo che sì. Ci sia un limite. Sì, ma non dirlo come dire adesso ti metti, sì. Cioè non hai mai ma tirato scusa. Il piattello in vita tua, sì, ma non è che cioè, questo lo dici tu. Ci vogliono anni e anni e anni di ma preparazione. Ma sono pochi nel mondo quelli che fanno tiro al piattello. Allora, sì, non sì. Saranno milioni quelli che si dedicano al tiro al piattello, quindi anch'io ho okay. Possibilità di eccellere ha maggior in questo ragione. Sport. Sono pochi e molto agguerriti, sì, e molto preparati. Ma se io da domani comincio a tirare al piattello, signori, tutte le mattine, annuncio: Leonardo Manera punta a Tokyo 2021 nel tiro al piattello. Magari 2021 no, ma 2025 o quando sì. Quindi quando mi dicevi ieri smetto, basta, è per questo. Ti devi sì, dire. Voglio dedicarmi al tiro al piattello. Dove sono le Olimpiadi dopo Tokyo? Sfida Lucchetti? Dopo anzi, Tokyo. Se c'è l'ascolto qualcuno esperto in quindi, tiro al piattello, mi mandi qualche nota per capire come si comincia, come si fa. Olimpiadi 2024, tra poco lo diciamo, la sfida Lucchetti oggi è la 2024, mi raccomando. Perché adesso perché si recupera e non si passa di altri 4 anni. Beh, no, dai, penso che siano nel 2024. Vabbè, dai, mi vedo già, medaglia d'argento, dai, nel tiro al piattello... Cioè così neanche vado alle Olimpiadi, punti alla medaglia d'argento, sì. Ovviamente, 2024, Parigi, tra l'altro, sei qui a due passi, grazie a Sfida Lucchetti. Due passi. Nous avons ici Leonardo Bonetti. Pull! Tiro al piattello, bronzo. No, argento, medaglia d'argento. Ci sentiamo tra un minuto, eccoci. Uno, nessuno, 100 Milan. Manera, tu sei andato a ritirare i regali, non li hai trovati e ci sei rimasto male, però sei andato per ritirare i regali. Questa è la verità. Allora signori, attenzione, per chiudere questa ora insieme c'è arrivato, è arrivato sul telefonino di Leonardo Manera un messaggio, io mi dissocio. Ciao, sono Jimmy. Comunque ecco, hai un regalo, un abbonamento di 11 caffè e di 11 brioche. Vergogna. Ciao, buon Natale. No, vergogna. Il signor Jimmy vergogna, del bar Jimmy. Vergogna. No, io voglio vergogna, voglio vergogna, ricambiare vergogna. E dico qui e ora, ik et nunc, che a mia volta lascerò per qualcuno 11 caffè e 11 brioche lì in regalo, già pagati al bar Jimmy. Comunque una vergogna, olio, vino gratis, avvitatori no. Benzina gratis, sì, ma, cioè, tutto, allora, tu tutto devi partire gratis. Dal presupposto che le cose che arrivano qui spariscono, quindi non è vero, sono per il gruppo Radio 24, magari vanno a finire l'amministratore delegato Cerbone. No, signor Pasqualino, manda l'olio per me e vanno a finire a Cerbone, questa non è una cosa bella. Non è arrivato, ma da casa di Cerbone vedo che è il mio olio adesso mandato da Nicolino. Nulla è arrivato. Signori, però tu hai iniziato raccontando, caro Leonardo, che hai lasciato oggi la città di Milano dal punto di Lambrate, insomma tu sei di Lambrate. Piazza allora. Udine che è lì vicino. Allora noi per chiudere prima del Natale abbiamo chiamato il Puma di Lambrate, cioè il Puma di Lambrate, Fabio Treves, ben ritrovato. Ciao carissimi. Grande Fabio con la sua armonica. Segreteria telefonica, segreteria telefonica natalizia. Ma tu hai una segreteria tipo così con tutti i tuoi pezzi, sì, la tutti blues i giorni band. La cambio, tutti i giorni la canto. Grande bello, Fabio Trevi, sì, intanto grande fratello rossonero, diciamolo. Vabbè, diciamolo, che bei momenti, durerà poco. Il cognome più bello d'Italia, quello di Alessandro, sì, vabbè, mamma mia. E poi un abbraccione al mio socio di Lambrate, perché lui dice Piazza Udine, ma io per anni sono stato lì da quelle parti. Ci siamo anche incrociati in un bar lì vicino una volta. Al bar dei cinesi, quanti ricordi. Fabio Treves e la sua Treves Blues Band, che purtroppo si dice con tutti, siamo fermi, Fabio. Siamo fermi, ma meglio stare fermi per poi ripartire che non lasciamo perdere i soliti discorsi. Però il blues, come sappiamo tutti, è la musica della speranza, è la musica del riscatto sociale, è la musica della sciambola, la musica che ti tiene vivo, quindi speriamo veramente di ripartire quanto prima, e così almeno il mio sogno, sai qual è, Alessandro? Quale? Di avere sul palco il mitico Manera. Perché è intonato e canta. Ma stai scherzando, lui è il Chuck Berry di Via Feltre, è uno che se volesse potrebbe fare qualsiasi cosa. Ma senti in un po', noi faremo, quando si potrà riprendere, quindi immagino verso marzo, faremo una serata benefica insieme a Stefano Geller, che è una persona che attualmente che non può muoversi, diciamo, no? Ha una grave disabilità, è il nostro amico qui a Radio 24. E andremo io e Alessandro, perché non ci fai compagnia e vieni anche tu? Contateci. Sarebbe bellissimo. Purtroppo con la mia armonica posso fare niente, però ormai sono diventato, da Puma di Lambrate, sono diventato il signore degli aneddoti, perché con l'età che avanza ho tante cose da raccontare, tante cose simpatiche e spiritose. Fino a poco fa avevamo il signore degli anelli, Yuri Checchi, in onda, adesso abbiamo il signore degli aneddoti. Veramente contateci, il blues è soprattutto solidarietà e voglia di dare una mano. E voglia di ripresa, però è bella questa cosa, che proprio dal blues potrebbe rinascere questo. Ci hai raccontato tante volte che nasce proprio come musica di speranza, di positività, anche nelle difficoltà. Quelli che se la menano più di tanto non sono dei veri bluesman. Il bluesman è quello che si rimbocca le maniche, fa chilometri e chilometri e chilometri per magari andare a suonare in una residenza per anziani o in un posto dove c'è tanta sofferenza. Quindi è un messaggio che do a tanti giovani musicisti: dateci dentro, suonate e pigliate esempio dalla vita di tanti bluesmen del passato che dovevano fare magari 10-12 ore sul trattore sotto al sole e poi sono diventati grandi musicisti, un po' come è successo a me e Leonardo, che abbiamo fatto tanta gavetta e alla fine siamo riusciti a ottenere qualche bel risultato. Tu ricordi il tuo primo spettacolo? Sì, mi ricordo, ed era una serata di solidarietà e per una fabbrica che stava chiudendo proprio a Lambrate, la Faema. Forse non dovevo, ormai l'ho detto. No, ma non c'è problema. Quindi mi ricordo questi operai che mi guardavano un po' strano, perché il blues, figurati, a metà degli anni 70 nessuno sapeva. Quanti anni avevi allora? Ne avevo 25. Era un genere molto innovativo per l'Italia all'epoca. A parte il fatto che quando andavi nei negozi dicevi buongiorno, vorrei un disco di blues, di jazz, no, di blues, blues, jazz è la stessa cosa. E dopo invece con gli anni si è capito che il blues è qualcosa di diverso, anzi è dal blues che nasce il jazz. Ed è la musica più bella, la musica che mi ha tenuto compagnia in questi primi 71 anni di vita. E ho incontrato tantissimi amici musicisti, e amici che non mi sarei mai aspettato. Cioè io tra i miei fans di blues ho comici, magistrati, operai, studenti. Questa è una cosa molto bella. Ma soprattutto, diciamolo, Fabio Treves ogni tanto mi manda le foto, che ne so, con Gullit, Van Basten, cioè delle grandi icone del calcio. Ma lui ha conosciuto e ha suonato a fianco ai grandissimi della musica. Ce ne vuoi ricordare qualcuno? Insomma, tu sei stato un palcoscenico. Frank Zappa, sono l'unico musicista ad avere suonato due volte sul palco con il mitico genio di Baltimora, Frank Zappa. Poi ho avuto la grande opportunità di aprire un concerto del Bob's di Bruce Springsteen a Roma. Che torna? Hai sentito che forse nel 2022 torna a Milano? Che torna. Il problema sarà San Siro, sarà ancora quello, sarà cambiato, perché l'importante è che arrivi. comunque c'è sempre l'arena, può sempre fare 2 mesi e mezzo di concerti all'arena. Invece tutto di fare... esaurito per 2 mesi e mezzo, certo. Si affitta l'arena per 2 mesi e mezzo o 3 mesi e mezzo. E sarà tutto esaurito sempre. Sarà tutto, certo, esaurito. Capite, Zappa, il boss. E cosa ti devo dire, carissimi Blues Brothers? Posso chiamarvi Blues Brothers? Certo, ma devi. Ma vuoi, ma io... hai anche, cioè, visto che ci hai salutato con l'armonica, hai anche qualcosa, sì, una dedica, un giro? Posso chiederti qualcosa? Non so se si può mai fare. Ma io di solito faccio, e per me uno dei simboli più belli, dei racconti più belli, sono il treno che attraversava coast to coast l'America. Quindi vi voglio salutare, augurare un anno stracolmo di salute, pace, amore, armonia e buona musica con questo train time di 20 secondi, lo dedico a tutti voi, sì, a tutti gli amici della radio, a tutti i vostri collaboratori, very ben detta. Voglio salutare anche tua moglie, che io ho una foto insieme a te e tua moglie, ogni tanto mi capita in mano e ricordo sempre con affetto anche lei, quindi mando un saluto, Susanna, anche a tua moglie. Ti ringrazio con tanto affetto. Ciao Alessandro, ciao Leonardo, ciao a tutti. Vai, Fabio. Lambrate, stazione di Lambrate. Grande Fabio Treves, la Fabio Treves Blues Band che ha concluso, insomma, concluso questa puntata, questa ora insieme molto particolare. Caro Leonardo, allora ci siamo, nel senso, è Natale, è stato un anno difficile. Come è stato quest'anno per te? Un anno bello, insomma, positivo? Beh, no, non si può dire. Io però ho sentito e ho colto in tante persone, per esempio, tutti coloro che sono diventati genitori quest'anno e che ricorderanno il 2020 come l'anno più bello della loro vita perché sono diventati genitori, no? Certo, tra mille difficoltà, tra mille complicazioni che non sono ancora finite. Speriamo davvero che il 2021, si dice sempre, sia meglio dell'anno precedente. Questa volta proprio lo speriamo di grande cuore. Sarà così, cuore, probabilmente, dai. Sì, sarà così. Vi mandiamo un grande abbraccio. Caro Leonardo, adesso ti puoi riposare fino al 7 gennaio. Il 7 gennaio invece si riprende. Non è che noi vi abbandoniamo, perché alle 9 del mattino ci potete trovare in tutti questi periodi natalizi con si chiamano dei meglio di. Pensa, sì, io voglio mandare un abbraccio affettuoso a Giulia Crivelli, sì, perché ogni volta che ci sono le vacanze in cui le altre trasmissioni vanno in vacanza, lei lavora. Giulia Crivelli è tutta la mia... Ma anche durante il resto dell'anno. Anche durante il resto dell'anno, Giulia Crivelli non riposa mai. Giulia Crivelli fa le vacanze? Mai. Questo è una sfida Lucchetti che lanciamo adesso e risolveremo nel 2021. Quando fa le vacanze Giulia Crivelli? Ecco. Non lo so. Quindi vi possiamo salutare con questo interrogativo. Con questo mistero lo sveleremo il 7 gennaio 2021. Uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100.